Il cacciatore di libri. È una delle gialliste più famose di Spagna, ma anche in Italia ormai è decisamente affermata. In molti la paragonano ad Andrea Camilleri e con Camilleri condivide la casa editrice italiana, la Sellerio. Parliamo di Alicia Jiménez Bartlett. Il suo ultimo romanzo, Il silenzio dei chiostri, è fra i libri più venduti. Tutto gira intorno all'omicidio di un frate e alla sparizione delle reliquie d'un beato. Ad indagare ancora una volta l'ispettore Petra Delicado, personaggio seriale della Bartlett, alle prese stavolta anche con cambiamenti nella sua vita personale, come ci racconta l'autrice. Sei sposata alla fine del libro scorso, Nido Vuoto, e allora la vediamo alla sua nuova vita, con i quattro ragazzi del suo marito. Per lei tutto è nuovo. Nel suo ultimo romanzo, nel quale appunto poi Petra si era sposata, insomma, alcuni lettori erano rimasti un po' delusi da questa sua scelta, perché comunque è l'icona dell'investigatrice, della donna forte, dura, anche un po' burbera. E adesso invece, insomma, i suoi fan hanno fatto pace con questa cosa? Sì. Io hanno scritto delle carte, lettere terribili, dicendo che Petra era una traidora. Ma dopo si è visto che una donna può cambiare poco e un matrimonio non necessariamente cambia il carattere di una donna, e Petra continua a essere un po' come sempre. Molti giallisti rimangono sempre fedeli a un loro personaggio, a un protagonista. Lei ha intenzione di rimanere fedele a Petra per tutta la vita? No, assolutamente no. Penso che quando Petra ha finito la sua vita, quando le storie di Petra sono troppo simili, sarà la fine. Che cosa c'è di lei in Petra Delicado? Molte cose. Abbiamo il senso dell'umorismo, l'ironia, un umore, un carattere cambiante e moltissime contraddizioni come tutte quante. Ma Petra è più coraggiosa che me, da me. In genere come le nasce l'idea di una trama di un giallo? Pensando all'ambiente generale dove mi piace che le cose succedano. E nel caso del silenzio dei chiostri? Perché la chiesa per me è sempre stato molto interessante come soggetto di un romanzo. E in altri libri da me vediamo sacerdoti, e vediamo anche il Papa in persona. Il mondo ecclesiastico è sempre affascinante per un giallista. Sì, perché è oscuro. Non si sa mai cosa succede all'interior di un convento. Non sappiamo la verità. E questo per un giallista è fascinante. E questa era Alicia Jiménez Bartlett, autrice di Il silenzio dei chiostri, pubblicato in Italia da Sellerio con la traduzione di Maria Nicola. Vi segnalo ora un altro libro ancora in classifica. Si tratta di Educazione siberiana di Nikolai Lilin, pubblicato da Einaudi. Un romanzo aspro che ha suscitato qualche polemica ma anche grande attenzione. L'autore racconta la sua vita, decisamente avventurosa nonostante non abbia ancora 30 anni. È nato in Transnistria, una regione dell'ex Unione Sovietica dove la criminalità era molto diffusa, ma considerata una forma di resistenza contro il governo di Mosca, tanto che Nikolai Lilin ci parla di criminali onesti. E allora sentiamo un brano estratto da Educazione siberiana, nel quale si parla dell'importanza dei tatuaggi nella comunità dalla quale Lilin proviene. La tradizione del tatuaggio degli Urca siberiani ha un processo lungo quanto la vita di un criminale. Si cominciano a tatuare alcuni segni all'età di 12 anni e solo dopo essere passati attraverso varie esperienze e periodi della vita, queste cose si possono raccontare con i tatuaggi, codificati e nascosti in un quadro che negli anni diventa sempre più completo. Ecco perché nella comunità criminale siberiana non esistono persone giovani che hanno tatuaggi grandi e completi come nelle altre comunità. In Siberia la schiena e il petto vengono tatuati per ultimi, quando il criminale raggiunge i 40-50 anni. E lo schema principale somiglia alla struttura di una spirale che, partendo dalle estremità, cioè dalle mani e dai piedi, arriva al centro del corpo. Anche per oggi è tutto. Un saluto da Alessandra Tedesco.